Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Il comandante apriva l'hangar, se l'aereo funzionava tutti sull'aereo e si andava in base, se l'aereo non andava si rimetteva l'aereo in hangar, la mattina dopo due preghiere si riprovava a far funzionare l'aereo. Il mio incarico prevede la gestione informatica di una base petrolifera nel bel mezzo del deserto del Sahara, raggiungibile solo tramite aerei russi vecchi e senza manutenzione. Storie di voli aerei e di grandi ritorni in una puntata che si intitola L'autunno di Bengasi. L'ennesimo fuori programma per Muammar Gheddafi lascia a sorpresa la residenza dell'ambasciatore libico per concedersi un cocktail e una passeggiata in pieno centro storico a Piazza Campodefiori a Roma. Del resto, il colonnello ci ha abituati alla sua imprevedibilità. Seduto ad un tavolino all'aperto, ha gustato un cappuccino. Era la fine dell'estate del 2010, era fine agosto, primi di settembre del 2010, quando Muammar Gheddafi arrivava in Italia, arrivava a Roma per l'esattezza, e tra mille polemiche ovviamente faceva un po' i suoi show, appunto scendeva, come avete sentito anche dal servizio del TG della 7, scendeva dall'aereo scortato da queste due ragazze, da queste due amazzoni, e poi faceva un incontro con centinaia di ragazze che erano state reclutate come comitato di benvenuto, erano state presumibilmente pagate, non si era capito, aveva raccontato, aveva detto che insomma l'Islam doveva diventare la regione d'Europa, insomma era Gheddafi, quindi era un personaggio, era un dittatore ed era un personaggio che lasciava dietro di sé una scia di polemiche, oltre che una scia di morte, come sapevamo già e come scopriremo anche oggi nella storia che vi racconteremo. Oggi abbiamo delle storie in questa puntata che si intitola L'autunno di Bengasi, che è un titolo che ci siamo dati con molta felicità perché ricorda quella bellissima canzone che si chiama Lettera al governatore della Libia di Franco Battiato, e in un passaggio parla proprio dell'autunno di Bengasi che arrivò carico di lussuria, come dice lui appunto in quella canzone. Però ci sono anche lettere in questa storia, come sapete stiamo raccontando la storia di in questa puntata stiamo raccontando la storia di Antonio Cocco, che è la nostra storia seriale, che è una storia basata sulle lettere, che questo giovane uomo che non andava in Libia, oggi molte storie arrivano da lì, non andava in Libia, era ad Algeri, in Algeria, quando mandava lettere al padre raccontando che voleva assolutamente scappare dalla legione straniera. Insomma, abbiamo un pacchetto di storie che vi regaliamo tutti i giorni, le mettiamo insieme da quella che ci mandate voi, dalla storia che ci mandate a linee d'ombra@radio24.it, una storia che ha un confine nel mezzo e noi ci costruiamo intorno una puntata. La prima di oggi ha un confine che è molto netto e cita espressamente la locuzione linee d'ombra. La sentirete: Massimiliano in un periodo della sua vita si trovava proprio in Libia per lavoro e ascoltava spesso una canzone di Jovanotti che si chiama La linea d'ombra, e quella canzone ogni volta che la risente gli fa tornare in mente quel giorno, che per lui è stata una linea d'ombra nettissima, direi quasi definitiva. E poi andremo in Libia per sentire la storia di uno scrittore libico, di origini libiche, anche se americano, che si chiama Hisham Matar, che in un lungo libro ha scritto di questo suo ritorno. Sentiremo proprio la storia di quando decide di ritornare là dove non era più tornato, per cercare proprio il proprio padre. Insomma, mettetevi comodi, cominciamo. Benvenuti a Linea d'Ombra. Siamo verso la fine degli anni 90. Sono un giovane diplomato geometra che sta lavorando da qualche anno in vari studi professionali, prima come apprendista, poi indirizzato verso la professione vera e propria. Una vita che sembra già incanalata ad una normalità quasi noiosa. Una bellissima ragazza accanto che studia medicina, di cui sono veramente innamorato e che penso diventerà la mamma dei miei futuri figli. Purtroppo, solo in famiglia le cose non vanno così bene come vorrei. Il rapporto con un padre è a dir poco conflittuale, mai contento delle mie scelte, mai pago del darmi i suoi istruiti consigli su come gestire la mia vita sentimentale, lavorativa, politica, insomma, un continuo braccio di ferro. Poi le cose iniziano a peggiorare in casa e naturalmente anche la relazione affettiva ne risente. Sono ormai spinto da una irrefrenabile voglia di cambiamento, di svolta, di novità, di autosufficienza. Pensa a quanto la mia voglia di visitare il mondo mi stia chiamando. Ai tempi non era così facile viaggiare e soprattutto non era così economico come lo è adesso. Complice un caro amico che lavora nel settore, mi viene la folle idea di cercare lavoro nel mondo del petrolio, attratto dal sogno di girare il mondo ed essere per giunta pagato per farlo. Per fortuna conosco abbastanza bene la lingua inglese e questo sembra essere già un ottimo biglietto da visita. Vengo reclutato ed assunto da una società di servizi petroliferi francese che opera in tutto il mondo con l'incarico di computer specialist. All'epoca chiaramente l'informatica non era così avanzata come adesso, quindi era abbastanza facile. Ero un appassionato di informatico, ho imparato da solo e quindi la ricerca in queste compagnie, visto che non ero laureato in ingegneria o in geologia, l'unico modo per riuscire a entrare nelle società petrolifera era come fornitore di servizi. E all'epoca avevo queste skill sulla gestione dei computer e quindi i colloqui li ho fatti per la posizione di computer specialist. Era esattamente quello che volevo. Feci vari corsi, specializzazioni, visite mediche e infine ebbi il primo incarico, la Libia. Sono anni in cui esiste ancora l'embargo sulla nazione, tutto più difficile, pericoloso, di cui non sappiamo niente. Non esiste Google Maps e non si legge niente, o quasi, sui giornali. I viaggi, gli spostamenti, la burocrazia è quanto mai complessa e difficilmente districabile per qualcuno che, come me, ha sempre vissuto nella normalità italiana. Il primo viaggio è appunto complicato, svariati scali aerei per arrivare in Tunisia, dove tramite auto private, viaggiando di notte, con l'ansia di non sapere dove fossi e con chi fossi, arrivo nella capitale, Tripoli. Dopo ore passate al confine da solo, con l'autista che passa ore con il mio passaporto alla dogana. Qui in città mi vengono in mente tutti i vari racconti dei nostri nonni, quelli ai tempi della guerra, ma la trovo comunque una città affascinante e degna di essere vissuta e visitata. Poi arriva il deserto. Il mio incarico prevede la gestione informatica di una base petrolifera situata nel bel mezzo del deserto del Sahara, ai confini remoti della nazione, raggiungibile solo tramite aerei russi, vecchi e senza manutenzione abituale. Paura tanta, ma non so perché anche un senso di menefreghismo, forse dovuto alla giovane età, oppure a un certo spirito di avventura, chi lo sa. Si lavora in turni settimanali, 5 settimane di lavoro continuato, 7 giorni su 7 e 5 settimane di riposo a casa. Il lavoro mi piace tantissimo, computer, petrolio, inglese, mille culture, mille cose da imparare e soprattutto quell'indipendenza economica e fisica che agognavo da un sacco di tempo. Non ci sono contatti con il mondo esterno, ma per ora non mi pesa più di tanto. Un paio di telefonate a settimana a mia sorella, per sentire se le cose vanno bene. Non esistono ancora messaggini, Skype o altro, e quindi è veramente l'avventura che sognavo. Completo un paio di turni, fino all'ultimo che purtroppo non scorderò mai. Siamo a febbraio, la temperatura nel deserto non scende sotto i 40 gradi di giorno, quasi zero di notte, condizioni climatiche che sconvolgono parecchio la vita. Il mio incarico prevede che in caso di malfunzionamento di un computer mi devo spostare per il deserto al fine di raggiungere la base dove si trova. Le più vicine si raggiungono con la jeep, mentre per le più lontane utilizziamo un vecchio aereo bielica che decolla e atterra sulla sabbia. 10 posti, molto vecchio, interni in legno, pilotato da un barbuto irlandese sempre più vecchio e sempre più alienato dai fumi dell'alcol. Ma va bene così. Il nostro capitano Akab, così soprannominato per svariati motivi, non ci fa paura. Anzi, ridiamo sempre insieme e ci divertiamo anche con lui. Ad ogni trasferimento scommettiamo se c'entra la pista di atterraggio oppure si infila in qualche duna che un minuto prima non c'era. Ma questa volta qualcosa non funziona. Mercoledì mattina devo visitare il pozzo X, con partenza alle ore 8 e rientro, si spera, in serata. Mi avvicino alla pista, ma non sono in pace con me stesso, qualcosa o qualcuno mi sta mandando segnali confusi. Arrivo alla scaletta. I ragazzi sono già corsi su per accaparrarsi il posto vicino al capitano e io rimango indietro. Faccio i primi gradini, poi ci ripenso. No, Massimiliano, non andare. Non so perché continua a martellarmi in testa questa cosa e non lo capirò mai, credo. Scendo dall'aereo, deriso dai miei colleghi in tutte le lingue parlate, dall'inglese all'arabo, e un po' divertito, un po' sollevato, mi avvicino alla baracca che funge da aeroporto. Un minuto dopo, un silenzio strano, irreale, e poi in un attimo un'incredibile assordante esplosione mi travolge alle spalle. Quel giorno lì c'era qualcosa che mi ha fatto capire che non dovevo andare. Il che cosa, sono sincero, non lo so. Qualcosa mi ha fatto scendere da quella scaletta. Adesso io sono credente, praticante, eccetera, eccetera. Sono così tanto, cioè, non voglio neanche pensarlo, neanche dirlo, che è stata la mano di qualcuno che mi ha detto, ma sì, non c'è andare, capito? E però, sì, alla fine poi è inutile che faccia finta. Io ci scherzo dicendo che, sai, ah no, quel giovedì in mensa c'era il pollo e volevo andare a mangiare il pollo. In realtà lo uso un po' come scherzo per sdrammatizzare anche con me stesso. Caldo, fumo, le orecchie che sembrano scoppiare. Il male che mi trafigge la schiena sono schegge di legno e acciaio ovunque, soprattutto il dolore mai provato quando 20 secondi dopo mi giro per capire cosa fosse accaduto. L'aereo non c'era più. Vedo soltanto una distesa di rottami coperti dalle fiamme ed è in quel momento che capisco che la linea non doveva essere oltrepassata. Mi ritrovo per settimane a dover convivere con questa cosa. Negli occhi i ragazzi che mi schernivano dal portellone, i loro volti giovani e speranzosi rubati per sempre dalla vita. Una terribile paura e una nostalgia assoluta. Erano gli anni in cui Jovanotti usciva con un nuovo album che mi aveva accompagnato nelle serate passate da solo nel deserto, a godermi quei tramonti indescrivibili, se non tramite poesie. Gli anni in cui Walkman era il tuo migliore amico, soprattutto per noi solitari e avventurieri. La canzone che non riesco a smettere di ascoltare è appunto La linea d'ombra, che praticamente narra la mia storia in quel momento lì. E ancora oggi, ogni volta che risento quella canzone, il mio cuore non smette di battere. I miei occhi riprendono le lacrime interrotte in quel lontano febbraio, dove ho quasi perso la vita, ma non ho attraversato quella linea. La linea d'ombra, la nebbia che io vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginare quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità, portare questa nave verso una rotta che nessuno sa. È la mia età mezz'aria, in questa condizione di stabilità precaria, ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto, mi giro e mi rigiro sul mio letto. Devo dire che ci arrivano, ci sono arrivate storie di incidenti aerei o comunque di situazioni difficili legate al volare, legate ai velivoli, però storie come questa di Massimiliano, in cui di fatto la linea d'ombra tu la varchi oppure l'hai già varcata e poi fai un passo indietro, scendi da quella scaletta e da lì la tua vita davvero riprende o altrimenti rischia di non poter andare più avanti, veramente ce ne sono capitate pochissime, credo che in realtà sia l'unica. Pronto, ciao Massimiliano, buongiorno. Ciao, buongiorno Matteo, buongiorno. Come stai, Massimiliano? Bene, tutto bene, tutto bene, molte grazie. La prima tutto cosa bene. Che mi viene da chiederti è cos'è accaduto che ti ha fatto tornare indietro e non ti ha fatto prendere quell'aereo? Non lo so, sono sincero, guarda, quando ero vicino a quella scaletta, dopo il primo passo qualcosa o qualcuno, adesso non voglio dire che cosa, mi ha detto no, Massimiliano, girati e vai via. E sinceramente ho ascoltato. Senti, quante persone sono morte in quella esplosione? Capitano e 8 ragazze. Che erano tutti, di fatto erano amici perché erano colleghi, ma immagino che lavorare in posti come quelli crei dei legami strettissimi, dico bene? Sì, anche perché nonostante fossimo tutti di etnie, culture, paesi diversi, alla fine il lavorare 14 ore insieme, 7 giorni su 7, crea un legame e poi da subito, questa è una cosa strana, crea subito un legame che va oltre l'amicizia, adesso non dico fraterno perché magari è un po' esagerato, ma si va veramente oltre l'amicizia e quindi... Senti, e tu sei rimasto ferito anche tu in qualche modo lì, giusto? Sì. E quindi sei stato soccorso, hai dovuto fare dell'ospedale? No, adesso niente di così grave perché la fortuna o quello che dicevamo prima ha fatto sì che quando l'aereo è esploso io fossi già a una settantina, una ottantina di metri e quindi comunque ho ricevuto qualche piccolo detrito diciamo sulla schiena, ma niente di... Ma te li sei tolti tu? Cioè. Eh, ce li ho a casa. Ce li hai a casa? Cioè hai a casa le schegge? Un paio di pezzettini di aereo, sì, sì. Senti, sì. Oggi cosa fai nella vita? Oggi lavoro per una società di ingegneria e architettura, quindi comunque ho proseguito il mio mestiere di E continui a viaggiare? In cantiere, sì, quando è possibile, sì. Adesso, certo. Diciamo, il periodo non è dei migliori, però sì, abbiamo cantieri un po' sparsi in tutto il mondo, quindi comunque... Quando si può, si viaggia. Senti, e che ricordo hai della Libia? Te lo chiedo perché io sono estremamente affascinato da quella terra, che adesso chiaramente è una terra di confine ed è una terra devastata da guerre, guerre civili. Prima lo è stata da un dittatore e adesso chissà cosa accadrà. Ma che posto è quello? Guarda, nonostante io abbia vissuto negli anni in cui c'era il dittatore di cui parlavi prima, il ricordo è splendido. Io so che non è controcorrente, ma... No, figurati, perché poi alla fine le esperienze personali immagino che dipendano anche da piccole cose, dalle persone che hai intorno, dalle esperienze di vita. Sì. Esatto, sì, sicuramente le persone hanno fatto sì che io apprezzassi in maniera diversa un paese che avevamo sempre visto o sulle Atlanti o sui ricordi del nonno che era stato lì, eccetera, certo. Eccetera. Quindi comunque il ricordo è bellissimo e... Non nego che mi piacerebbe tornarci appena si può, appena possibile, appena la situazione sì, migliora. Insomma, si placa. Che posto è il deserto? Come te lo ricordi? Il deserto è qualcosa che affascina soltanto il pensiero di andarci, guarda. Quindi chiaramente, a parte gli incentivi comuni, immenso, strepitoso, poi devo dire che le cose che mi ha travolto di più sono quei tramonti spettacolari che si godono soltanto in posti del genere. Ma voi dove vivevate? Avevate delle case, delle tende? Noi vivevamo in una base, quindi io vivevo in un container. Sì. Avevo il mio container, era un mio container personale. Quindi di giorno c'erano 50 gradi e di notte meno 20. No, meno 20 no, però di giorno accendevo l'aria condizionata e di notte accendevo. Senti, hai mai assistito a una tempesta di sabbia? Sì, beh, ero qualcosa di abbastanza frequente. Diciamo, quindi, e in quel caso cosa fai? Ti barrichi? Una sirena che preannunciava 10 minuti, un quarto d'ora prima l'arrivo della tempesta, indipendentemente dall'entità, ci si chiudeva nei posti chiusi. Massimiliano, ti ringrazio, nonostante appunto la storia abbia una sua tragicità, ovviamente c'è però qualcosa di vivificante nel tuo racconto e nel racconto di quei luoghi. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo. A presto, ciao. Ciao. Il protagonista della prossima storia si chiama Hisham Matar. È uno scrittore libico che attualmente vive a Londra. Scrive sulle maggiori testate del mondo, dal Guardian al New York Times. Viene da una famiglia di dissidenti politici conosciuti in tutto il paese. Suo nonno, Ahmed, aveva lottato contro il colonialismo italiano in Libia. Suo padre, Jaballa, era diventato in breve tempo la figura principale tra gli oppositori al regime di Gheddafi. Nel 2017 Hisham Matar ha vinto il premio Pulitzer nella categoria Biography or Autobiography, cioè biografie o autobiografie, con il romanzo autobiografico The Returns, Father, Sons and the Land Between, cioè Il Ritorno, Padri, Figli e la Terra nel Mezzo, in Italia pubblicato da Einaudi con il titolo Il Ritorno, molto semplicemente. In questo libro Hisham racconta di quando dopo la primavera araba, dopo 33 anni, torna in Libia alla ricerca di suo padre. In una puntata che si intitola L'autunno di Bengasi, la seconda storia di oggi è quella di Hisham Matar. State con noi. Primo mattino, marzo 2012. Mia madre, mia moglie Diana e io eravamo seduti in una fila di sedili fissati al pavimento piastrellato di una sala partenze dell'aeroporto internazionale del Cairo. Il volo 835 per Bengasi, annuncia una voce, sarebbe partito in orario. Di tanto in tanto mia madre mi lanciava un'occhiata ansiosa. Anche Diana sembrava preoccupata. Mi teneva una mano sul braccio, sorridendo. Dovrei alzarmi e fare un giro, dicevo a me stesso, ma il mio corpo restava rigido. Più di una volta mi aveva portato nella città in cui è nata, nella California settentrionale. Conosco la vegetazione, le sfumature della luce e i vasti spazi in cui è cresciuta. Adesso, finalmente, ero io a portarla nel mio paese. Tutto a un tratto, pensavo che tornare dopo tanto tempo era una cattiva idea. La mia famiglia se n'era andata nel 1979, 33 anni prima. Questo era lo iato che divideva l'uomo dal ragazzino di 8 anni che allora io ero. L'aereo avrebbe solcato quel baratro. Il viaggio a cui mi accingevo avrebbe potuto privarmi di una capacità che avevo coltivato con enorme fatica, la capacità di vivere lontano dai luoghi e dalle persone che amo. Joseph Brodsky era nel giusto, e anche Nabokov e Conrad, artisti che decisero di non tornare a casa. Avevano tentato, ognuno a suo modo, di guarire dal proprio paese. Ma anche Dmitri Shostakovich, Boris Pasternak e Najib Mahfouz erano nel giusto. Mai lasciare il proprio paese. Parti e ogni legame con l'origine sarà reciso. Sarai come un tronco morto, duro e cavo. Cosa fai quando non puoi partire e non puoi tornare? Nei 36 anni trascorsi da quando abbiamo lasciato la Libia, io e la mia famiglia abbiamo stabilito legami con parecchie città surrogato, come Nairobi, dove andammo nel 79 fuggendo, o il Cairo, dove ci stabilimmo l'anno seguente in un esilio indefinito, e poi Roma, Londra, dove andai a studiare quindicenne e dove per 29 anni ho ostinatamente cercato di costruirmi una vita. Parigi, dove mi sono trasferito stanco e spazientito con Londra. In tutte quelle città mi ero divertito a pensarmi tranquillo e sistemato nella lontana isola in cui ero nato, Manhattan. Immaginavo un nuovo conoscente che durante una cena mi faceva la solita vecchia domanda: di dove sei? E io che rispondevo: New York. In quelle fantasticherie mi compiacevo del fatto che una simile affermazione sarebbe stata insieme vera e falsa, un trucco da illusionista. Mio padre era una delle figure di spicco dell'opposizione. La sua organizzazione aveva un campo di addestramento in Chad, oltre il confine meridionale della Libia, e numerose cellule clandestine all'interno del paese. La carriera di mio padre nell'esercito, il suo breve incarico diplomatico e il patrimonio personale che era riuscito ad accumulare facevano di lui un nemico molto pericoloso in Libia. Nel marzo del 1990 mio padre fu sequestrato dai servizi segreti egiziani nel nostro appartamento del Cairo e consegnato a Gheddafi. Venne portato nella prigione ad Abu Salim, a Tripoli, conosciuta come l'ultima fermata, il posto dove il regime spediva coloro che intendeva dimenticare. A metà degli anni 90, parecchie persone rischiarono la vita per far arrivare alla mia famiglia tre lettere di mio padre. Nonostante fossero già passati anni, nella sua prosa pacata e ironica dimostrava una straordinaria determinazione a pazientare. In una scriveva: la crudeltà di questo posto supera di gran lunga tutto ciò che abbiamo letto a proposito della Bastiglia. C'è crudeltà in ogni cosa, ma io sono più forte delle loro tattiche di oppressione. La mia fronte non sa cosa voglia dire chinarsi. Da queste lettere e da altre testimonianze di detenuti che ho potuto raccogliere, sappiamo che mio padre rimase ad Abu Salim almeno dal marzo 1990 all'aprile 1996, 6 anni. Quando dalla sua cella fu trasferito in un'ala segreta della stessa prigione, o in un'altra prigione, o giustiziato. Ha tentato di fuggire con un piccolo convoglio di fuoristrada. Missili NATO lo hanno bloccato, di qui l'ultimo tentativo di nascondersi in un tunnel, poi le raffiche di mitra. C'è chi sostiene che il sanguinario dittatore abbia gridato di non sparare, chi invece sostiene abbia combattuto fino alla fine, morendo da martire. Le fonti si accavallano. Il nuovo governo libico precisa che non c'era alcun ordine di uccidere Gheddafi e che il suo corpo ora sarà sepolto in un luogo segreto. È la fine di un regime, la fine della supremazia di una famiglia su un intero paese. A fine agosto del 2011 Tripoli è caduta e i rivoluzionari hanno assunto il controllo di Abu Salim. Hanno abbattuto le porte delle celle, finalmente tutti gli uomini ammassati all'interno di quelle scatole di cemento hanno potuto uscire alla luce del sole. Io ero in casa, a Londra. Passai la giornata al telefono con uno degli uomini che martellavano le porte metalliche delle celle. Udivo le martellate sul metallo tramite il telefono. Si udivano moltissime voci. L'uomo passò il martello a qualcun altro. Raggiunsero una cella nel seminterrato, l'ultima che restava. La gente faceva a gara per dare una mano. C'era una gran confusione. Tornò al telefono e disse che pensavano che nella cella ci fosse una persona importante di Aghedabia, la città natale di mio padre, che era stato tenuto in isolamento per molti anni. Io non ero in grado di parlare. Resta in linea, disse l'uomo al telefono. Non saprei dire se impiegarono 10 minuti o un'ora. Quando finalmente buttarono giù la porta, trovarono un vecchio cieco in una stanza senza finestre. La sua pelle non vedeva il sole da anni. Quando gli chiesero il suo nome, disse che non lo sapeva. A quale famiglia apparteneva? Non lo sapeva. Da quanto tempo era là? Sembrava aver perso la memoria. Possedeva un unico bene, una fotografia di mio padre. Non feci nessuna domanda, e quando l'uomo mi disse «Mi dispiace», io ringraziai e riagganciai. When I thought that I might lose you, oh, I trembled like a leaf. Thinking you were keeping someone else's pillow warm. Oh, when the owls tried by and I heard that whistle call, I didn't know what to do, I just stared at the turquoise walls. The mournful beauty of your eyes, it crushes me to think that you could give that love to someone else. In ottobre, mentre cercavo di concentrarmi sulle mie lezioni a New York, tutte le prigioni politiche, ogni carcere segreto sotterraneo, caddero nelle mani dei rivoluzionari. Le celle venivano aperte e gli uomini liberati e identificati. In nessuna c'era mio padre. Per la prima volta la verità divenne ineluttabile. Era evidente che l'avevano fucilato o impiccato, o lasciato morire di fame, o torturato a morte. Nessuno sa quando. O quelli che lo sanno sono morti, o sono fuggiti, o sono troppo impauriti o indifferenti per parlare. Era avvenuta nel sesto anno di prigionia, quando le sue lettere avevano smesso di arrivare. O durante il massacro che si era consumato quell'anno in quella stessa prigione, quando 1270 uomini erano stati radunati e passati per le armi. O era stata una morte in solitudine, forse il settimo anno, o l'ottavo, o il nono. O era avvenuta nel ventunesimo anno dopo che era scoppiata la rivoluzione. Magari mentre io rilasciavo una delle tante interviste per denunciare la dittatura. O forse mio padre non era affatto morto, come il mio unico fratello, Ziad, ha continuato a credere anche dopo che tutte le prigioni sono state aperte. Forse, sperava Ziad, era fuori e per qualche impedimento, perdita della memoria, della vista, della parola o dell'udito, non riusciva a trovare la strada di casa. Come Gloucester che vaga nella brughiera di Relier. Cominciate a salirla proprio ora. Osservate come fatichiamo. Non però pare che il terreno sia piano. L'erta è terribile. Ascoltate. Lo sentite il mare? Avanti, signore. Eccoci. Arrivati al luogo. Deve essere stata la storia del prigioniero che aveva perso la memoria a indurre mio fratello Ziad a credere che nostro padre fosse in qualche modo sopravvissuto. In quella fredda sera di ottobre a New York ho cominciato a dubitare sia della mia capacità di tornare in Libia, sia della mia volontà di non farlo. Sono entrato nel nostro appartamento nell'Upper West Side e non ho detto nulla a Diana. Abbiamo cenato, poi ho tolto i piatti e li ho lavati lentamente. Abbiamo ascoltato un po' di musica e più tardi siamo usciti per una passeggiata nelle strade buie. Quella notte non ho quasi dormito. Mi rendevo conto che se non fossi tornato in Libia non avrei più potuto concedermi di pensarci, il che avrebbe comportato un'altra forma di resistenza e ne avevo abbastanza di resistere. Sono uscito di casa all'alba, ero contento dell'indifferenza di New York. Avevo le gambe pesanti. Mi accorgevo di essere invecchiato, ma anche del perdurare di qualcosa di infantile, come se una parte di me avesse smesso di crescere nel momento in cui avevamo lasciato la Libia. Ero diretto al college. Cercai di concentrarmi sulla lezione che avrei tenuto quel pomeriggio sul processo di Kafka. Pensavo alla tenerezza del protagonista di quel libro nei confronti dei due uomini che vengono a giustiziarlo, alla sua resa oscura ed eroica, alle parole che dice a se stesso, che sono: l'unica cosa che posso fare è conservare sino alla fine il raziocinio che inquadra tutto con calma. Mi dissi che era un bene dover pensare alle mie lezioni. Passai sopra una griglia nel marciapiede, sotto c'era un vano appena sufficiente per starci in piedi e certo non abbastanza ampio per sdraiarsi. Una scatola grigia incassata nel terreno. Non sapevo a cosa servisse. Senza rendermene conto mi ritrovai a guardarci dentro in ginocchio. Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a trovare una botola, una conduttura, qualcosa che portasse fuori. All'improvviso, fui sopraffatto. Piangevo e mi sentivo piangere. fu quello il momento in cui presi la decisione di tornare. Sono gli episodi di ieri e quello di oggi, episodi molto molto amari, quelli della storia che vi stiamo raccontando, tratta dal libro che si chiama La ridotta Isabella, pubblicato in Italia da Terre di Mezzo, vincitore del premio Pieve Saverio Tutino di qualche anno fa, cioè il premio indetto dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, grazie al quale noi siamo venuti a conoscenza di questa storia, grazie al quale abbiamo avuto appunto l'appoggio anche per poter contattare i familiari di Antonio Cocco e Mauro Pescio di Aragione. Giunti, li ha anche incontrati proprio a Pieve e il loro racconto è preziosissimo per questa storia. Ebbene, sono davvero puntate molto molto amare, quella di oggi è il prosieguo naturale di quella di ieri, in cui Antonio, ubriaco dopo una notte passata nel bar dei Legionari, siamo a Sidi Bel Abbès, siamo quindi in Maghreb, continua l'addestramento. Ecco, dopo una di quelle sere in questo bar dei Legionari, Antonio ubriaco torna alla sua branda e scrive questa lettera al padre, in cui dice tutto quello che di solito nasconde per evitare di ferire il padre e i familiari. È vero che lui sa che spedendola al padre, il padre proprio in ufficio, cioè al lavoro, il padre sceglierà cosa leggere e cosa non leggere a casa e cosa non far leggere a casa alla madre e ai fratelli, come se fosse una sorta di censore di ciò che è meglio che la famiglia non sappia e di ciò che invece è giusto che la famiglia sappia. Quindi in questa lettera Antonio rivela tutto, rivela anche non un tentativo di suicidio, ma quasi la volontà di farla finita. Lo capirete e lo sentirete attraverso questo racconto. Stiamo entrando davvero nel cuore di questa storia. Non siamo ancora partiti verso l'Indocina, ma siamo lì per farlo. Non è ancora arrivato il momento in cui Antonio chiede ufficialmente al padre di aiutarlo a scappare, ma anche lì siamo a tanto così ormai perché questo accada. Quindi mettetevi comodi. È la storia di Antonio Cocco. Caro papà, l'altro giorno, mentre eravamo ai tiri con il mitra, ero di guardia sul posto più esposto ai tiri, assai pericoloso. Invece di mettermi dietro alla trincea di pietre, mi sono messo proprio in direzione degli spari, sperando che qualche pallottola mi colpisse. Forse ti verrà da ridere, ma io l'ho fatto cosciente di essere in suicida, perché le pallottole fischiavano, e come ne desideravo una sul petto. Antonio usava un meccanismo semplicissimo e lucido, fin dalla prima cartolina, al Credito Italiano, Luigi Cocco, Credito Italiano Rialto. Lui scriveva al padre in ufficio in maniera che fosse il padre a decidere cosa leggere in famiglia. Magari dentro a una busta c'era la lettera al padre, c'era una lettera a un fratello, a una sorella, alla mamma, però quelle alla mamma e ai fratelli erano per loro e gli venivano date, no? Quelle che invece scriveva al padre, il padre poi decideva se dire o non dire, cosa dire a tavola, alla sera. Le lettere non venivano spedite a casa, il padre faceva da filtro. Ecco a che punto ti riduce questa vita. Ad una massa di carne che si muove perché gli altri lo ordinano e gioisce quando vede qualcuno che sta male. Sapessi che gioia bestiale provo io quando vedo qualche disgraziato che durante le marce cade bocconi a terra, gridando e sputando sangue. Deve essere proprio la soddisfazione di una bestia quella che io provo quando vedo patire qualcuno. Scusami, papà, di questi sgorbi, quanto mai sconnessi, ma sono ubriaco e forse solo ubriachezza mi ha reso così sincero e mi ha indotto a scriverti questa lettera che forse ti farà vergognare d'avere un figlio che ragiona così e che ha un cuore ormai così incallito. Come mi ricordo di certi fatti, quando facevano qualcosa, devono stare tutta la notte in prigione con un sasso enorme in braccio e coi piedi in acqua come punizione, che ovvio che uno diventa feroce dopo, uno sopporta una cosa del genere. Sono cose queste che certamente per sopravvivere diventi feroce, insomma. Eppure, se ci penso, l'unica cosa di cui a casa mi potevo vantare era quella di avere compassione di tutti. Ora però mi accorgo che anche questa mia unica dote se n'è andata. Ma ti prego, papà, abbi tu un po' di compassione per questo povero disgraziato di legionario. Una famiglia di cattolici praticanti, ma convinti, sì, sì. Da padre. Il padre non era un bigotto, a casa sua in giardino c'erano gli attori che recitavano Goldoni, cose eccetera, cioè non era un bigotto. La mamma era più una donna di chiesa, molto piadonna eccetera. I figli sono tutti cresciuti in parrocchia, no? Poi dopodiché ciascuno ha preso la sua strada. Tony, secondo me, è uno che, siccome aveva intravisto la guerra mondiale a Venezia, lui ha intravisto la guerra mondiale e lui era convinto di essere ormai un uomo, cosa che è un classico di qualunque adolescente, no? Tony ha superato un confine reale, vero. A Tony è andata male, perché è nata nel modo peggiore, perché è diventato un uomo nella legione straniera giusto in tempo per morire, dico io. Perché pensa che cos'era, cioè, che cos'era quella la legione straniera, che cosa, con chi aveva a che fare, con cosa si trovava. Ci sono dei ritagli, per esempio, di giornale che lui ha mandato, delle riviste che avevano lì, i legionari, lui li mandava con dei suoi appunti, no? Ce ne sono un paio di capanne e cose che bruciano, e lo scrive anche nelle lettere. Voi non sapete, papà, non sai che cosa facciamo noi qua, chi sono i legionari, che cosa si fa. Allora, questi che lui chiama, no, con la cultura di allora, i selvaggi, però poi dice, ma noi a questi qui che cosa gli stiamo facendo? Ovvio che avesse bisogno di un padre spirituale, perché come vedere, cioè ogni giorno vedevi una strage, sì, ogni certo. Giorno vedevi morti. Non so nemmeno quando potrò impostarti questa lettera, perché non ho più un quattrino. Molto probabilmente mi ridurrò a rubarli a qualcuno, oppure a rubare qualche bollo dalle lettere di qualche camerata. Mi faccio schifo. Ma non so fare altrimenti. Tutti lo fanno. E come al solito, lo faccio anch'io. T'abbraccio e ti bacio. Tony. Life is just, life is keen. Vi ricordo che potete ascoltare questo programma in ogni forma o ogni giorno dal vivo dalle 15 alle 16 dal lunedì a venerdì su Radio 24, oppure potete all'alba, scusatemi, mi dimentico sempre di chi ascolta all'alba, in realtà ci arrivano un sacco di storie di chi ci ascolta alle 5 un quarto, 5 e mezza della mattina, quindi un saluto va anche loro che ci stanno ascoltando in questo momento in replica. Anche voi mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, la vostra storia di confine, la vostra storia con una linea d'ombra nel mezzo, e noi ci facciamo una puntata. Ora la linea al GR, noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.